Allora, sono le ore 9.57 di giovedì 11 aprile 2024. Il boato che sentite in sottofondo è l'urlo dei sottopassaggi del muro torto. Sto andando al lavoro per commentare un bellissimo spot pubblicitario, come diciamo noi, commercial, come dicono gli anglosassoni, della città di Vilnius, immagino dell'ufficio del turismo della città di Vilnius, che sicuramente metterò anche nei post bibliografia del canale Telegram, perché è giusto vederlo. In realtà è uno di tanti, c'è tutta una serie di video tra virgolette promozionali della città, che parte dalla consapevolezza di una fama non proprio esaltante, no? Di una delle città in realtà considerate dagli europei meno attraenti, una delle capitali considerate meno attraenti in Europa, che a prescindere io direi che è un errore, anche perché una città non la fanno solo le cose da vedere, i monumenti eccetera, le attrazioni, ma anche e soprattutto le persone che ci vanno, e te lo dimostra Berlino, che forse esteticamente non è esattamente il massimo, ma quando è stata per un certo periodo dopo il crollo del muro un luogo estremamente economico per andare, per essere accolti, per trovare una sistemazione, per i divertimenti, per mangiare, ha attratto giovani da ogni parte d'Europa e del mondo, e quando tu porti le persone, la diversità e anche, diciamo, le nuove generazioni, quello che succede è che diventa una capitale della creatività, cosa che è successo per una ventina d'anni, forse anche una trentina d'anni, dopo l'89 possiamo dire. Posso testimoniarlo perché per una decina d'anni ci sono andato tutti gli anni per ragioni di lavoro, però poi anch'io ho assistito al declino di questa capacità delle persone di rendere la città attraente, perché la città diventava fatalmente, per la legge della domanda e dell'offerta, più costosa, e oggi somiglia sempre di più ai posti dove non succede mai nulla di nuovo, come Londra, come Parigi, come purtroppo anche Roma per certi versi, proprio perché non si crea qualcosa di diverso nella città, ma si cerca di rispondere alle aspettative da cartolina che arrivano dall'esterno. Ecco, Vilnius non ha questo problema perché non esiste nessuna aspettativa da cartolina e risolve la questione con lo spot che vi invito a vedere, è molto divertente.